radure. Dirette streaming dagli eventi che colorano il tessuto multiculturale della Campania. Ciao da Giulia Scalona e da Tony Lyon alla parte tecnica. Continua in questa seconda parte il racconto dedicato alle celebrazioni del Capodanno cinese con Anna Bruno della cooperativa sociale culturale italo-cinese Onlus e i ragazzi della classe che ci stanno dando supporto, così come avete ascoltato nella prima parte. Buon ascolto e basta. Marcolì, tutto a posto oggi a scuola? Ti ha interrogato qualcuno? Dici, Marcolì, hai preso tre? Tre e mezzo. Dai, veramente cosa? Non ce la faccio, veramente preso tre e mezzo. Sì, veramente ha preso un brutto voto, lo sapevo. Noi ci ricopriamo il Cicini, noi lo diamo un po' una bella giornata. Perché hai fatto una settimana? Anche la prossima settimana devo fare filone. Ma perché è Capodanno, perciò devi fare filone. Senti, ma che succede stasera in Cina? Allora, questo poi è appunto la grande domanda che ci ha portato... Stasera non tanto, Federico, perché hanno chiuso un sacco di feste per colpa del coronavirus. Ah, okay. Sono state bloccate un sacco di feste in alcune città cinesi. Sì, quelle principali abbiamo visto. Però in genere che si fa stasera in Cina? Si mangia e si vede una serie TV di festa Capodanno che fanno ogni anno. C'è l'Amadeus cinese, praticamente hanno anche loro. E poi a mezzanotte ci sono i fuochi, no? Eh sì. Vabbè, se mancano quelli là in Cina penso che... No, ma perché c'è una storia, c'è una leggenda. La racconto io, la racconti tu, quella di Nianzhou. Allora, praticamente la leggenda è legata al Capodanno cinese. Racconta che c'è questo mostro che si chiama, almeno questo lo puoi dire tu? Io so. C'è questo mostro che esce la notte di Capodanno per mangiare vivi le persone. E però questo mostro ha paura di due cose, del colore rosso e del rumore. Per cui i cinesi, per allontanare il mostro, si vestono di rosso e fanno i fuochi d'artificio. Ah, ok. Quindi il rumore dei fuochi d'artificio allontana il mostro. Poi ci sono una serie di tradizioni legate, non so se le vuoi sapere. Sì, ora. Allora, siamo qua per la settimana prima della festa si pulisce casa, si spazza tutta la casa, perché bisogna spazzare via tutto il brutto dell'anno precedente, un po' come noi prima si buttavano le cose dalla finestra. E poi la sera, insomma, ci sono dei piatti tipici che si mangiano. Soprattutto pesce. Il pesce, perché il pesce? Perché Nianye Yuyu, che ogni anno la ultima cena dell'anno dobbiamo mangiare pesce. Perché Yu è lo stesso, il Yu di pesce ha lo stesso suono di un altro ideogramma che è di fortuna, è l'augurio di prosperità, di fortuna, insomma. Poi si mangiano i Niangao. Niangao, giusto? Perché ogni... Allora, Nian significa anno. Ah. Gao significa alto. E l'ho già scordato io, incredibile. Vedi? È appena ridetto. E quindi è Nian Nian Gao Gao per dire che l'anno va verso l'alto, va crescendo. Okay. Poi nel nord della Cina si mangiano i Jiaozi. Giusto? Che sono i ravioli cinesi, quelli che noi conosciamo come ravioli cinesi. Poi si mangia il Tang Yuan. Nel sud della Cina si mangiano i Tang Yuan, che sono delle palline bianche, dove per Tang Yuan si intende l'unione familiare, perché Yuan è quello di circolo, di stare insieme, e quindi rappresenta l'unione familiare. Quindi anche i piatti, ogni piatto ha un significato legato al suono di un altro ideogramma, perché gli ideogrammi cinesi possono avere suono uguale, scritti diversamente, ma con suono uguale o simile. Magari cambia il tono, perché il cinese è una lingua tonale. E quindi si accostano alcuni ideogrammi che che simboleggiano altro, nel senso che il yu di pesce, il gao per augurare l'altezza, insomma il crescere. Quindi questa è una delle cose più belle della lingua cinese, questo fatto che è una lingua che ti permette veramente di usare, cioè, a volte riesci anche a inventarla una parola con la lingua cinese, perché se sai cosa vuoi dire puoi mettere insieme due ideogrammi e tu riesci a far capire e crei un'idea nuova. Sì, è una delle cose che a me piace di più della lingua cinese, cioè, diciamo, oltre alla scrittura, perché secondo me quella è incantevole, cioè, non lo so, vedendola già solo così è appunto una cosa che ha poi un è grande tonale, fascino, quindi è molto musicale, no? Perché in cinese ci sono quattro toni, tipo per esempio noi facciamo sempre l'esempio di ma, di questo che ha quattro toni diversi e quattro significati diversi, ma, dove c'è mamma, cavallo, miglio e il modo per fare una domanda. Ciao. Gli anni sono diversi, no? Perché allora l'anno è lo stesso, siamo sempre nel 2020, però il mese è diverso, esatto. Perché segue il calendario lunare, non il calendario solare, quindi oggi finisce l'ultima luna e comincia la luna nuova del prossimo 2020 anno. E sì, il capodanno cinese in realtà ha un altro nome, com'è in cinese oggi? Come si dice? Che festa è oggi? Chuanjie. Si chiama Chuan Jie, che è Chuan di primavera e Jie di festa, quindi festa della primavera, perché ora non ci siamo più perché con i cambiamenti climatici che abbiamo, però era il periodo in cui finiva la parte più dura dell'inverno e cominciava a rinascere tutto, e quindi si cominciava a ricoltivare, a preparare il terreno, e quindi era la festa in cui si riportava il ciclo della natura. Insomma, quindi si chiama festa di primavera. La festa di primavera dura tanto tempo, no Federico? Non è solo oggi, perché poi finisce tra una settimana con la festa delle lanterne. Giusto? Quindi dobbiamo tornare qua tra una settimana pure. No, vabbè, penso che basti, perché qua in Italia la festa delle lanterne non si festeggia. Invece in Cina, per esempio, si appendono le lanterne rosse per strada. Un'altra cosa che si fa a Capodanno sempre. Quello abbiamo visto anche in alcuni, non solo qua, ma anche fuori ad ogni negozio li trovi. Fuori ad ogni negozio hanno messo appunto questi addobbi rossi. La lanterna rossa, perché è inaugurante. Ah, ok. Un'altra cosa che si fa, ti stavo dicendo, ai lati della porta si mettono due strisce, due verticali e una orizzontale. Ben auguranti, di solito per augurare fortuna, pace, serenità e ricchezza. Un'altra cosa che si fa, tu stasera lo riceverai, lo compao? Sì. Allora, i ragazzi giovani ricevono una bustina rossa. Il rosso in Cina è il colore della fortuna. Quindi ricevono la busta rossa con dentro i soldi. E si augura, insomma, ricchezza. Noi c'è una frase molto divertente che è quella Gongxi fa cai. E poi voi come rispondete? Oh, buona. Che sarebbe? Ti auguro tanta ricchezza, sì, però tu dammilo con Pao insomma, il pacchetto. E tu sai già come spenderli questi soldi, Federico? Non lo so ancora. Come succede? Ogni famiglia quindi festeggia a casa sua? E qui avete organizzato quindi qualcosa a casa o anche con altre persone? Una festa? Ognuno festa con la propria famiglia. Sì. E come mai questa delle lanterne invece non ha? Perché è molto molto tipico, cioè molto locale come cosa, nel senso, anche perché in Cina c'è una settimana di ferie ora. Ah, ok, qui invece prima due, ora una, vero? O sempre due settimane di ferie in Cina adesso? Due. Sempre due. Anche perché si permette, insomma, siccome molti non abitano più nel loro paese di origine, le due settimane servono per tornare nel paese di origine, per stare con i parenti. E queste due settimane si concludono con questa festa della lanterna. Invece qui, soprattutto per i cinesi che vivono all'estero, è così. Qualcuno sta a casa a mangiare, qualcun altro va al ristorante a mangiare, ma finisce stasera la festa, no? Sì. Domani si lavora? Sì. Si va a scuola? Certo. Certo. Alcuni di loro hanno ancora la voglia di voler tornare in Cina, e ci sta, insomma, perché è il paese di origine. Lui, per esempio, vorrebbe ritornare in Cina per fare l'università, forse, no? Ci stavi pensando. Università in che materia? Informatica. Ah, informatica, vabbè. Per molti altri, invece, ormai stanno qua. Piano piano ci si rende conto che è vero, ci sono una serie di difficoltà, però poi non è così male stare qua, anzi, insomma, i responsabili della cooperativa ormai hanno deciso che molto probabilmente rimarranno qui perché è diventata la casa, e sta succedendo per tantissimi questa cosa qua. Io dico sempre che in Italia, e soprattutto forse a Napoli, che è quello che conosco io come territorio, in realtà noi stiamo solo un po' indietro. Questo è un processo inevitabile, secondo me, è una cosa che succederà per forza, cioè non si può fermare, non si può bloccare questo processo di diversificazione degli abitanti di un posto. Perdonatemi il termine brutto proprio da dire così, però quello che intendo io è dire che non si può più pensare al fatto che in un posto ci sia una tipologia di persone e basta. Io sono contentissima che sia così. Che è una cosa che non sia mai capitata nella storia dell'umanità, e quando hanno cercato di farlo accadere, diciamo, sono successe cose le più brutte. Perfetto. No, tra un po' sarà una giornata di ricordo. Perfetto. Di questi tentativi, e chiaramente è una cosa totalmente innaturale. Sono d'accordo io, quindi come stavamo dicendo è inevitabile, cioè io sono contentissima che sia così. Credo che quello che possiamo fare noi qua, ed è uno degli obiettivi della cooperativa, è di velocizzare questo processo, perché secondo me non ce lo possiamo più permettere di stare sempre un po' più indietro. Ad aspettare che le cose accadano. Sì, quindi uno dei lavori che noi facciamo con loro, sì, gli insegniamo Dante, che poi attraverso Dante uno può parlare di una serie di altre cose, cerchiamo di scambiarci, perché poi anche loro ci stanno dando tantissimo negli anni che, insomma, che stanno qui con noi, per cui questo processo va semplicemente spinto e portato poi a farlo camminare da soli. Insomma, noi probabilmente tra 10 anni faremo altro, magari non servirà più questo nostro lavoro, quello che stiamo facendo noi ora, magari saranno loro a essere quei ponti finalmente che stavamo aspettando. E secondo me, insomma, è questo quello che va fatto, va semplicemente dato una mano affinché questa cosa succeda in maniera naturale. Al momento non è naturale, al momento è un processo forzato, però si lavora in questa direzione. No, figurati, io non so, immagino forse anche le tecnologie, come sta cambiando il mondo, può essere qualcosa che magari mette in contatto e avvicina. Loro sono ragazzi come i ragazzi di tutto il resto, appunto, del mondo. Appunto, no, cioè, immagino quindi... quello, per cui magari ci sono c'è un mondo, appunto, che sta cambiando, e ci sono chi è ragazzo, chi è giovane adesso, che sta cambiando forse alla stessa velocità di tutti gli altri, nelle altre parti del mondo. Il sistema comunque è quello che li dovrebbe sostenere, che è ancora un po' lento, ma loro stanno avanti. Così, loro stanno avanti. Tu, per esempio, avresti dei vantaggi a studiare in Cina e non in Italia? Che tipo? Università hanno i vantaggi se hanno gli studenti stranieri cinesi, anche stranieri. Gli studenti cinesi che finiscono il quinto anno di scuola superiore in Cina devono fare il Gaokao, il famoso Gaokao, che è un esame molto selettivo. È una sorta di, sai, non so, anche qui a medicina si fanno i test di ingresso, però è molto molto selettivo, e anche il tuo voto di diploma può inficiare la scelta della tua scuola, nel senso che se hai un voto basso non puoi accedere alle migliori università. I ragazzi cinesi che vivono all'estero, con alcune università, hanno la possibilità di non fare il Gaokao, ma di entrare direttamente nell'università. E un'altra cosa che però cioè non è a loro vantaggio, il fatto che quando loro arrivano in Italia dalla Cina, per esempio a 12 anni, ti faccio un esempio, non vengono inseriti nella classe che loro dovrebbero frequentare. Per esempio, anche il caso di Federico, non è stato inserito, cioè magari doveva andare in seconda media, ma siccome ha un livello di lingua zero, viene inserito in una, se non in due, classi precedenti. Per cui ho un esempio di là, in un'altra classe, ho un ragazzino che dovrebbe stare in seconda media, che sta in quarta elementare. considera il disagio di questo ragazzino che sta, si trova in una classe con bambini di 3 anni più piccoli di lui, lui nel boom della fase, insomma, tra l'adolescenza e la pubertà, e quindi per loro questa è una grossissima opportunità, mangio, perché recuperano quei 2 anni che hanno, certo, perso in questo sistema che è previsto dalla legge, che dovrebbe essere, insomma, per aiutare i ragazzi ad acquisire la conoscenza linguistica. Non li aiuta perché non c'è nessun supporto sull'italiano per i ragazzi stranieri, almeno qua, io parlo del territorio che conosco, di altre città so di buone pratiche ma non so di eccellenti pratiche in giro per l'Italia. Questo lo ripeto nella mia esperienza, poi magari ci saranno delle scuole dove questa cosa non è eccellente, non è dappertutto, però, così, però sicuramente viene richiesto un grande sforzo agli studenti e ai ragazzi. Molti di loro, insomma, se non avessero strutture come questa, non dico questa, ma come questa, dove insomma ci sono persone che ti possono aiutare, ecco, a fare un Dante, ma come lo posso capire io Dante se vengo dalla Cina, non conosco l'italiano, non conosco la cultura, non so che cos'è il Rinascimento, che cos'è, cioè, ecco, io come lo inserisco quel dolce stil novo nel... come lo capisco, come lo faccio a capire? E quindi questa è una delle cose che, sulle quali insomma, bisogna lavorare. Tipo, Federico, la tua materia preferita qual è a scuola? Matematica. Matematica. Beh, matematica quindi è un po' forse senza troppe lettere. No, matematica è la materia in cui loro vanno fortissimi. Come ti dicevo, la scuola elementare cinese su questo è fortissima, nel senso che loro arrivano in Italia che hanno fatto più o meno già il programma fino alla terza media, prima superiore nostra, cioè fanno cose... hanno un sistema diverso di studio della matematica, e questa cosa però all'arrivo in Italia li aiuta molto, perché poi è il punto di forza degli studenti cinesi che stanno nelle scuole italiane. Quindi attraverso la matematica poi sì, dall'altra parte si incontrano professori, insegnanti, insomma, capaci, tra virgolette, 10.000 virgolette, quello può essere il canale di comunicazione e di contatto con lo studente cinese. Tornando al Capodanno cinese, ho letto che quest'anno è l'anno del topo. Vuol dire qualcosa di, appunto, sullo zodiaco che è diverso? Come, perché è l'anno del topo? Come ci vogliamo funziona? Fare aiutare anche da loro, Federico? Sì, se c'è qualcuno. Marco Zin, vieni un attimo, vieni. Matteo, ti voglio fare una domanda. Vieni un attimo. Allora, questo fatto che sentite nomi italiani, me la spiego un attimo. Lui, ecco, non si chiama Federico, ma no, si chiama Zuo Haojie. Quando arriva nella scuola italiana Zuo Haojie, nessuno lo sa chiamare. A volte succede che loro o i loro genitori, per comodità, decidano di dargli un nome che non è quello che sta sui documenti, ma è un nome di, per facilitare, insomma, per evitare. E non ha nessuna validità questo, no, pure per i documenti? Non c'è, no, una... sul documento c'è Haojie. Allora, mi chiedevano che cos'è questo fatto dell'anno del topo. Dai, vogliamo raccontare la storia dell'imperatore di Giada? Ogni anno cambia il simbolo. L'animale, allora facciamo che vi aiuto. State un po' timidi oggi, di solito. Allora c'è una leggenda, l'agenda dell'imperatore di Giada, no? Che ha convocato a corte gli animali, dicendo che in base a come gli animali fossero arrivati al suo palazzo, lui avrebbe dato la precedenza, insomma, al primo, al secondo, al terzo. Quindi alcuni animali, 12 animali, si mettono in cammino. Davanti a tutto c'è il bue. Il topo però chiede al bue: e dai Marco, di salire sulla sua testa. Ma io non lo so. Non lo so. Quando arrivano alle porte del palazzo dell'imperatore di Giada, il furbo topo salta dalla testa del bue e diventa il primo. Quindi è il primo dei segni dell'oroscopo cinese, che però lo chiamiamo oroscopo per semplificare anche questa volta. E ogni anno cambia un animale. Questo che è finito chi era? Il maiale? Era l'anno del maiale. Questo che arriva è l'anno del topo. Che è il primo. Che è il primo, quindi sta ritornando, no? Si riparte da capo. E quindi non si fa mese per mese come lo zodiaco, diciamo, a cui siamo abituati noi, ma anno per anno. Io per esempio sono una capra, sono dell'anno della capra. Ogni animale ha delle caratteristiche. Il topo com'è? Com'è l'anno del topo? Com'è l'anno del topo, ragazzi? Wow, è il mio anno. Questo. Sì? È un anno di soldi, di ricchezza? Beh, ma speriamo di salute, no? Visto pure le notizie che ci sentono. Quindi ogni anno ha delle caratteristiche. Per esempio, io so che la capra è un animale molto sincero. Giusto? E il topo com'è? Furbo. È furbo. Bene. E quindi inizia questo nuovo ciclo. Dopo il topo che c'è? Il bue? L'anno prossimo è l'anno del bue, poi? Poi c'è la scimmia, il maiale, il gallo, il drago, il serpente, la tigre. Marco che sta dicendo tutti i segni è quello che non ne sa niente di niente. Ok, vabbè. Guarda, io penso che appunto è una panoramica, capisco anche la difficoltà di racchiudere e fare delle semplificazioni di questo tipo. Uno sforzo che immagino per voi è quotidiano qui da... per entrambi i fronti. E una cosa che gli dico sempre, che mi fa piacere dirla anche oggi, sono due le cose che a me non piace parlare di integrazione, ma di interazione. Sembra una sciocchezza, ma integrare significa che ti manca qualcosa. Cioè io prendo il ferro perché mi manca il ferro, ho un'anemia e quindi la devo integrare con il ferro. Interazione è uno scambio, no? È qualcosa che io do a te e tu a me. E poi io gli dico sempre che loro non sono metà e metà. Cioè non devono dire io sono metà cinese e metà italiano, ma io sono due, sono tre, sono quattro, cioè io sono cinese, sono italiano, perché essere metà significa che mi manca un'altra metà, invece a me non manca niente, a loro non manca niente, loro sono pienamente uno e l'altro e saranno poi un altro ancora, un altro ancora, un altro ancora, ma stiamo proprio nella fase filosofica insomma del mio discorso. Però io ci tengo tantissimo a dire questa cosa. È una cosa che sta uscendo fuori seguendo anche il percorso di seconde generazioni, se le, no, vogliamo mantenerle così, o nuove generazioni, scusami, come ci piace dire. Nuove generazioni, no, pensando alla comune amicizia con Bahia, con Ubuntu, nuove generazioni italiane che... a noi come radio ci sta dando un grande supporto, perché poi non essendo inseriti in questi processi culturali, umani, abbiamo bisogno di vedere le cose con gli occhi di qualcun altro, ed esce fuori proprio questa cosa qui, per cui non è tanto una difficoltà di viversi un'identità a metà o di... ma è costruirsene proprio una su presupposti completamente nuovi e diversi, e noi ormai con la radio lo stiamo fortunatamente scoprendo, e sono poi le cose che non riguardano solo una comunità o un'altra, ma più che altro riguardano persone che hanno vissuto una storia comune e i cui genitori magari si sono trovati a dover lottare, a dover faticare nel vero senso, certo, della parola. Poi è anche vero che le varie comunità hanno ci sono delle piccole caratteristiche comuni, però venendo qua uno ragiona sul fatto che poi appunto storicamente nell'immaginario uno ha a New York, Little Italy e Chinatown, quindi qualcosa vorrà significare che magari ancora oggi si trovano delle persone che parlano un dialetto italiano arcaico perché non hanno mai neanche imparato l'italiano vero, quindi forse ci sono delle storie che sono comuni, e poi si dovrebbe partire dalle esperienze comuni del genere per andare avanti su quel percorso che raccontavi prima, sul lavoro che penso voi qua state portando avanti. Ora vi auguro appunto che con... Sì, no, vabbè, quello è il passo più importante, no? Non riuscirci, però provarci. E, no, assolutamente, e l'obiettivo iniziare. È la strada, non è... L'obiettivo è camminare. Sicuramente, voglio dire, poi in Italia le scuole possono essere un buon centro dove iniziare almeno a entrare in contatto con la fascia più giovane della popolazione. Per gli adulti invece la cosa cambia un po', voi Allora, gli adulti dobbiamo fare un po' delle distinzioni, nel senso che ce ne sono alcuni che per questioni linguistiche, di lavoro, sono rimasti un po' più all'interno della comunità stessa. Magari non parlano ancora l'italiano, spesso si affidano ai loro figli nella traduzione. Altri invece che forse proprio attraverso il lavoro spesso, magari entrando, cioè avendo rapporti con venditori italiani o comunque con clienti italiani, fanno un percorso diverso, quindi anche lì in quel caso là c'è più scambio con il territorio. Ed è il caso, come ti dicevo, spesso di molti dei loro genitori, insomma quelli che sono arrivati qua in Italia già un po' più giovani. Per quelli arrivati in Italia già un po' più adulti, no, non c'è tanto lo scambio con il territorio, cioè ci sono ancora tantissime persone anziane che non parlano per niente l'italiano, nonostante siano qua magari da 20 anni. Per i loro genitori pochi ormai non parlano l'italiano. Tua mamma e tuo papà parlano l'italiano? Poco. Fede, i tuoi? No. Non parlano l'italiano, poco, solo quello per il negozio. Poi invece magari c'è qualche altro, tipo i genitori appunto di qualcun altro, di Cristina nello specifico, che parlano benissimo. Dipende spesso anche dal contesto in cui hai lavorato, perché magari se hai lavorato con una varietà di clientela, per dirti, no? Non è solo quella in cui... Ah, ok, solo quella della tua comunità. Sì. Questo è importante, questo è un canale di comunicazione, anche il lavoro nello specifico, per loro la scuola, per gli adulti il lavoro. Io ringrazio Anna, Bruno, e ringrazio Federico, Matteo e Marco, grazie, e gli altri che appunto spero di non aver disturbato troppo. No, non ti preoccupare, a parte che adesso stanno arrivando, vedi? Okay. Poi, quindi penso che sia il momento giusto, perfetto, per lasciarvi al vostro lavoro. Vediamo per esempio oggi che compiti dovete fare. No, inglese. Vabbè, inglese da solo. Studiare la presentazione. Ok. Per esempio poi chiudiamo, insomma, una del modus facendi, insomma, della cooperativa è quello di renderli pian piano sempre più indipendenti, cioè magari lui tra 2 anni non avrà proprio più bisogno di me nello spiegargli delle cose, non è possibile, Matteo. Non è possibile. Però l'ideale è quello, cioè sì. L'idea è quello, piano piano io ti faccio camminare con le tue gambe, questo è un Beh. Po' il progetto. Ti faccio vedere il resto dei locali, così mi metto di qua, se no dicono che poi li trascuro. Vedi, sono più arrabbiate perché li trascuro. Va bene, allora, con l'inglese poi che dobbiamo fare? Storia, mi sa, storia quasi tutti i giorni. C'è Sara che quasi tutti i giorni fa francese, inglese. Rosa deve fare. Terzo piano. Hai selezionato il piano terra. Ci muoviamo adesso in discesa. La destinazione è stata raggiunta. Prima di uscire, attendere la completa apertura delle porte. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante, vai sul sito www.stranierincampania.it. RAM vive all'interno di Impact, FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.